abbiamo in collegamento con noi Hossein Taheri. Ci sei, Hossein? Sì, ci sono. Oh, ben ritrovato, stai diventando un interlocutore abbastanza abituale. Beh, sì, se continuiamo questi ritmi, però. Allora, intanto c'è stato in scena fino a pochi giorni fa Acque Sporche al Teatro Sala 1. E allora ti chiedo, visto che ne abbiamo parlato in trasmissione, per lanciarlo un bilancio. Beh, è andato molto molto bene, ha avuto veramente molto riscontro di pubblico e niente, insomma, la scommessa di fare un po' un teatro, chiamiamolo così, civile, ma poi non è quello, cioè di fare un teatro che ha un forte connotato politico e civile rispetto a delle tematiche che sceglie di raccontare, poi dentro una fiction, una storia che comunque ha anche emozioni, sentimenti, eccetera, eccetera. Certo. E beh, tutto questo insomma ha dato il suo frutto. E adesso stiamo passando alla seconda produzione che noi avevamo già fatto l'anno scorso, ne avevamo anche un po' parlato. Certo. Con voi. L'abbiamo anche proposto radiofonicamente. Esatto, è stato anche proposto radiofonicamente, così come è stato anche ripreso radiofonicamente a Quest'Orche, per cui bene, ecco, era su questo che ti volevo chiedere, infatti. Bene, quindi ci sarà un nuovo appuntamento con una vostra produzione. Allora, qui si parla di Shakespeare, Otello, in che chiave? Ma abbiamo spinto anche qui fortemente su una sorta di contemporaneità sì. della vicenda. L'abbiamo ambientata per delle questioni, diciamo, di tempistica, per cui le cose vengono a conoscenza dei personaggi, l'abbiamo ambientato sul finire degli anni Ottanta, quindi ancora non esisteva internet, ancora non esisteva in qualche modo il telefono cellulare a portata di tutti, eccetera, eccetera. Ma insomma, abbiamo cercato di immaginarci la vicenda dentro una Cipro assediata, dentro una sorta di bunker militare in cui si consuma fra tre coppie sostanzialmente, Bianca, Cassio, Iago, Emilia e Otello e Desdemona, si consuma questa vicenda, che è una vicenda d'amore, diciamo, sotto le bombe, sotto l'assedio. La cosa è molto forte perché fondamentalmente riesce a dare anche delle suggestioni visive notevoli, insomma, rispetto alla vicenda, e poi perché, come dire, per certi versi toglie quella patina, diciamo così, di antichità che il testo si porta dietro, appunto, cioè Otello, questo personaggio che viene da una improbabile, come sempre in Shakespeare, Mauritania, che non si sa dove è collocata nel mondo, Shakespeare era molto vago sulla geografia, e qui invece, appunto, gli abbiamo voluto dare una caratterizzazione molto forte medio orientale, un po' anche dovuta alla mia origine, e questo tentativo fortissimo da parte di questo generale apprezzatissimo a Venezia di integrarsi fino a diventare, come dire, più veneziano dei veneziani stessi. Però a un certo punto avviene una frattura. In questa frattura avviene appunto proprio per la volontà di andare fino in fondo in una storia d'amore, e avviene poi per la diceria sporca di Iago, che mette un germe dentro il pensiero di questa coppia, Otello e Desdemona. In realtà poi, come insomma potrete anche vedere nella vicenda e anche nella nostra messa in scena, è come se si è già predisposti a questo finale così estremo, appunto, che avviene un omicidio per gelosia. Quindi è come se i personaggi portassero già in sé i germi di questa brutta fine. E quindi abbiamo fatto un lavoro molto bello proprio sull'analisi dei personaggi, a cercare proprio che cos'è il sentimento amoroso in tempo di guerra, e a cercare anche un po' di capire che cos'è un pregiudizio, no? Un pregiudizio da una parte e dall'altra, il pregiudizio di non sentirsi all'altezza della situazione, non sentirsi completamente accettato in una certa situazione, e dall'altra parte il pregiudizio verso lo straniero, che comunque viene considerato, malgrado tutto quello che sa fare, malgrado le sue attestati di fede, viene considerato pur sempre uno straniero e basta. Quindi insomma è interessante, perché credo che siano dei temi che stiamo dibattendo anche adesso nella società civile, no? Che cos'è un'integrazione? Cioè, lo vediamo addirittura terze generazioni nate e cresciute nei paesi europei a un certo punto accade qualcosa, no, nella testa e nei sentimenti delle persone, e questa è un po' l'analisi che stiamo cercando di portare avanti. Tra l'altro, in riferimento all'ambientazione storica, all'attualizzazione, vedo in locandina uno di quei telefoni grigi che si usavano fino appunto agli anni 80 in Italia. Fine degli anni 80. Beh, noi che siamo un po' di quella generazione lì, ce li ricordiamo e c'eravamo anche affezionati, insomma, sicuramente le nostre storie d'amore sono passate anche attraverso quei telefoni. Senti, Os, rispetto al lavoro della vostra compagnia, ci racconti un po' come si è formata, che attività sta facendo? Allora, noi abbiamo messo su un gruppo con Paolo Zuccari, Elodie Treccani e altri attori che si avvicendano, insomma, nelle parti dei vari spettacoli. Abbiamo messo su un gruppo molto giovane, noi siamo i più anziani, stiamo parlando della generazione dei cinquantenni, e stiamo cercando di fare un forte lavoro sia sulla drammaturgia, sia in qualche modo su un allestimento essenziale scenico che porti però verso una concretezza, no? Una riconoscibilità immediata di quello di cui stiamo parlando, insomma, senza troppi fronzoli e senza troppe voli pindarici. E questo chiaramente se ci fa perdere qualcosa rispetto alla visionalità, per esempio, di un autore come Shakespeare, però poi ce lo restituisce nel suo rapporto con il pubblico, perché il pubblico si identifica facilmente, poi le storie sono talmente belle per cui ci si entra, insomma, dentro. E quindi questa specie di scelta a monte estetica richiede grande rigore, grande disciplina, grandi prove. È come se dovesse essere tutto calibrato nella misura giusta per non far succedere, come dire, qualcosa di stonato, no? Di fuori posto rispetto a quello che il pubblico sta vedendo. E devo dire che questa scelta, insomma, sta pagando, nel senso che è quello che poi il feedback che abbiamo è quello proprio di dire, da parte di persone anche che non amano e non apprezzano forse venire a teatro ogni sera, e cioè di dire: sono entrato in una storia, sembra a un certo punto di stare dentro un film, o di stare dentro il mio ufficio, o di stare dentro un bunker militare. Quindi, cioè, questo significa che l'obiettivo in parte è stato raggiunto, e poi sicuramente quello che vorremmo, che stiamo cercando un po' di mettere in conto, è quello di avere più possibilità di parlare alla gente, no? Sì. Incontrare un pubblico vario, ecco. Il tentativo nostro, che poi anche il tentativo che cercavamo in qualche modo di scatenare nella mia esperienza che ho fatto forte al Teatro Valle Occupato, è proprio quello di riavvicinare la gente al teatro in un rapporto nuovo, che non sia, come dire, quella roba un po' stantia istituzionale che si vede purtroppo nella gran parte dei teatri della nostra città. Cioè, stiamo cercando fondamentalmente di riprendere un rapporto dialettico vitale con il pubblico. Sì. Andando a memoria, rispetto all'altro anno, dall'altro anno a questa parte, terzo vostro appuntamento al Teatro Sala 1. E questo rapporto, Hossein? Questo rapporto è un rapporto controverso e dolorosamente sentimentale, nel senso che è una sala che io ho fondato sul fine degli anni 90 insieme ad altri diciamo due connazionali, la Reza Kerman e Sharu, e poi io da questa sala mi sono un po' allontanato, perché è una sala che poi ha scelto di fare quello che purtroppo gran parte delle sale romane fanno, cioè una sorta di affittacamere, una sorta di come posso dire, di luogo a ore. E purtroppo è un luogo meraviglioso, è una chiesa sconsacrata, è uno spazio che impone proprio come dire, un'intensità emotiva, ecco, non ti permette di barare. Il problema è poi come stanno oggi le sale in questa città, sono tutte sale che non hanno più la possibilità di andare avanti. Io non riesco a capire le scelte delle amministrazioni precedenti, ma se vogliamo anche un po' di questa amministrazione. Cioè, il fatto è: vogliamo valorizzare i luoghi di cultura di questa città, o vogliamo continuare a tenerli così, come dei luoghi ad ore, appunto, e quindi, come tutti i luoghi ad ore, luoghi generici in cui il pubblico fa fatica ad affezionarsi. Ora, non è così per tutte, ci sono molti teatri che stanno cercando di fare una politica diversa, rilanciati proprio dai giovani, insomma, pensa all'Orologio, pensa all'Argo, però cioè, appunto, ci vuole un investimento, no? Un investimento culturale, emotivo, sentimentale verso le sale della nostra città. Os, allora, ci nel ricordare l'appuntamento al Teatro Sala 1 dal 17 al 27 per Otello, ricordiamo anche i vostri riferimenti web per chi volesse saperne di più? Allora, noi abbiamo una pagina Facebook, appunto Otello Zuccari Taheri, e troverete appunto la pagina dell'evento e dello spettacolo. Poi sul sito del Teatro Sala 1 ci sono delle notizie, insomma, sullo spettacolo, e poi abbiamo, adesso non li ho sotto mano, però insomma li troverete tranquillamente sul web, abbiamo dei numeri telefonici e delle mail con cui comunicare con la compagnia e per eventualmente prenotare i biglietti. E ancora non abbiamo il nostro sito, se questo lo vuoi sapere, perché le economie sono state investite su altre cose, ma presto lo faremo. Bene. Anche per cominciare a raccogliere tutto quello che stiamo mettendo in atto. Bene, allora Os, un abbraccio e un in bocca al lupo, ci sentiamo. Grazie. Presto per l'altra registrazione a questo punto. D'accordo, perfetto. Io comunque voglio ringraziare Radio Onda Rossa perché sta facendo qualcosa di incredibile in questa città, sta diventando la memoria storica di quello che avviene culturalmente, che è una roba necessarissima per andare avanti. Ti ringrazio, un abbraccio. Okay. Ciao. Un bacione. Ciao, ciao a tutti. Ciao.